Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Un paio di settimane fa avevamo dato notizia di una costante crescita dei cosiddetti mercati dei contadini, i farmer markets, che secondo un recente monitoraggio della Regione Veneto risultavano essere 72. Al di là del numero che è probabilmente già stato ampiamente superato, dobbiamo registrare il successo di questo genere di mercati. Sarà per i prezzi o sarà per la qualità indubbia dei prodotti che sono freschi e a chilometri zero? Insomma, sono un po' un segno di un nuovo modo di acquistare che parla anche di una sensibilità nuova dei consumatori, più attenti di un tempo all'alimentazione, ma anche di un maggiore sforzo fatto dagli agricoltori che per sopravvivere hanno dovuto anche qualche volta inventarsi venditori diretti. Di tutto questo vogliamo parlare oggi con Franca Castellani, che è la coordinatrice dei mercati di Campagna Amica di Coldiretti nella Regione Veneto. Buongiorno signora Castellani. Buongiorno a voi. Benvenuta alla trasmissione Il Quadrifoglio. La prima domanda che ci viene spontanea è proprio: ma il perché di questo successo dei mercati di Campagna Amica, ma dei mercati degli agricoltori in generale? Sì, è un successo perché, come diceva giustamente lei, siamo attivi diciamo dal 2009 e abbiamo visto proprio una crescita costante, sicuramente perché siamo in grado di offrire il giusto rapporto qualità-prezzo, il prodotto del territorio in primis e chiaramente la freschezza, perché il prodotto che arriva ai mercati di Campagna Amica è un prodotto raccolto o la mattina stessa o la sera prima, per cui la freschezza è in dubbio. Il cosiddetto chilometri zero. Anche. Esattamente, sì. Ecco, lei è anche, ha un suo mercatino, un'azienda agricola? Sì. Ecco. Noi a Verona, giusto per prima parlava di numeri, sì. Giusto possiamo dare un attimino un po' i numeri, a livello Veneto oggi contiamo 97 mercati, ne abbiamo 6 a Belluno, 13 a Padova, 7 a Rovigo, 11 a Treviso, 25 a Venezia, 27 a Verona e 9 a Vicenza. Questo solo come Coldiretti? Come Coldiretti, sì. Quindi i dati della regione sono ampiamente dati della regione, superati, certo. Perché poi ci sono anche altre organizzazioni agricole e anche certo. Altri che forse non fanno parte di organizzazioni agricole. Certo, quindi certo, certo. Le chiedevo appunto se lei era protagonista in prima persona, com'è sì. Per un agricoltore riuscire a fare entrambe le cose, perché io voi avete una... sia un'azienda sia una... Una protagonista in prima persona, prima perché seguo proprio i mercati di Verona, per cui li abbiamo visti nascere, noi siamo presenti su tutte le 7 circoscrizioni, 8 circoscrizioni della città, per cui insomma una presenza massiccia, una presenza settimanale, abbiamo visto che dando la costanza e la presenza insomma chiaramente si cresce, ma l'obiettivo anche importante è quello di portare comunque il cliente consumatore nell'azienda agricola. Per noi il mercato è anche, possiamo dire, un bigliettino da visita, perché tantissimi nostri clienti poi ci vengono a trovare in azienda, perché giustamente si vuole anche vedere e toccare con mano che in effetti insomma le produzioni ci sono, per cui tanti insomma vengono a casa con grande soddisfazione. Noi oggi, per dire, a Verona abbiamo 112 punti vendita diretti aziendali, per un totale di 508 in tutta la regione, per cui insomma ecco. Ecco, questi mercati sono stati forse anche un motivo per riavvicinare all'agricoltura sì. Le persone, proprio perché hanno potuto rientrare in contatto con gli agricoltori, cosa che forse si era certo. Un po' persa con certo. L'avvento di supermercati ed altro, quindi mediazioni certo. E quindi c'è anche una sensibilità che sta tornando anche grazie a questo. È una sensibilità, io dico sempre che il consumatore ha via via capito che praticamente il lavoro di campi non è solo è produrre beni alimentari, ma è anche una... come possiamo dire, è una salvaguardia dell'ambiente, tutela il paesaggio, la biodiversità, tramanda le tradizioni, e questa consapevolezza si chiama reciprocità e lega sempre più produttori e consumatori, perché alla fine della fiera siamo la faccia della stessa medaglia, per cui insomma noi ci crediamo molto, ma il consumatore stesso è un consumatore che ha una sensibilità diversa e senta, ci cerca. All'inizio di questi primi mercati in qualche caso c'è stata anche qualche critica che si era sollevata sì, anche dalla distribuzione locale, i negozi di ortofrutta che stanno un po' sparendo forse nel territorio. Come si conciliano queste due cose e com'è adesso la situazione? È stata un po' superata? Si è trovato un equilibrio? Un pochino, sì, un po' superata, devo dire, anche perché in tanti punti si è riusciti a trovare un equilibrio. Ad esempio, noi vendiamo il prodotto dell'azienda agricola specifico di ogni azienda e il prodotto del territorio. E, chiaramente, mentre il fruttivendolo che vende anche altri prodotti, certo. Noi abbiamo constatato in certi, quando siamo sulle piazze, il fruttivendolo del quartiere che mette ed espone quella merce che noi chiaramente non siamo in grado di offrire, e vedo che comunque, insomma, per quella giornata che siamo presenti, ok, insomma, non ha... Sì, che poi sono una volta a settimana, a volte anche a esatto, tendenzialmente sono una volta a settimana, esatto. Faccio un esempio, quando noi abbiamo il periodo forte di fragole, chiaramente il fruttivendolo ha la possibilità di vendere limoni, certo. E le arance che si abbinano bene e che, certo. Che noi non è un prodotto a chilometro zero nostro, insomma. Certamente, facciamo adesso una breve pausa, tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Non ci sarà più l'estate, non ci saranno più le passeggiate tra quei sogni e i papaveri che immaginavamo solo per noi. Canterò per strada con la chitarra e il cuore affranto. Torniamo in linea con la rubrica Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di mercati, di campagna amica, con la coordinatrice veneta Franca Castellani. Volevo chiedere, per un imprenditore agricolo credo non sia facile improvvisarsi venditore, sì. Perché c'è da seguire un po' la campagna, poi seguire anche il mercato, alcuni lo fanno anche in maniera anche costante. Come fanno gli agricoltori a organizzarsi? Sì. Inizialmente, insomma, vedo le aziende se sono strutturate per questo tipo di attività, strutturandosi sia a livello di coltivazioni, perché comunque poi anche le semine e tutto per avere il prodotto nel più lungo tempo possibile. È chiaro che bisogna distribuire le semine e gli articoli, parlo ortofrutticoli, in maniera un po' più diversa. E poi chiaramente anche una forza lavoro maggiore, le aziende che hanno scelto di fare questa attività, tantissimi hanno usufruito della sorella, sono rientrati in azienda e si occupano di questa attività a tempo pieno, per cui prima, porto sempre un esempio di un mio produttore di vacche da latte che diceva: prima io con 30 vacche in azienda ci stavo io e mio papà e ho rischiato di chiudere, oggi con gli stessi animali mi trasformo tutto il mio latte in formaggio, sono ritornate a lavorare in azienda e si occupano della vendita anche le due sorelle, per cui si capisce che insomma è un'attività che aiuta e un sostegno per l'azienda. E anche il ritorno dei giovani verso l'agricoltura forse è dovuto anche al fatto che l'agricoltura è diventata un po' più imprenditoriale anche attraverso queste forme di promozione e di gestione del prodotto, di vendita diretta al pubblico. Certo, diciamo che chi segue la vendita diretta sono le aziende quelle un po' più multifunzionali, perché hanno l'attività appunto hanno diverse attività all'interno dell'azienda, perché chi ha magari agriturismo con la vendita diretta, chiamiamo multifunzionali, perché comunque anche l'agriturismo, la vendita diretta, l'agriasilo, insomma sono tutte aziende, certo, che hanno diversificato. E le vediamo, i protagonisti sono i giovani e le donne spesso in queste, certo, attività qua. Senta, come vengono selezionati questi produttori? Cioè, c'è un qualche criterio particolare? Come facciamo poi ad essere sicuri anche che i prodotti che portano sono veramente loro? Ci sono un minimo di controllo da parte vostra? Sì. Parlo anche a livello Verona per dire, ma anche nelle altre province esistono dei controlli fatti proprio dai mercati di campagna amica, insomma dall'organizzazione. Chiaramente noi, avendo tutte le aziende registrate con i fascicoli, sappiamo benissimo quali sono le produzioni dei nostri associati e poi controlli anche fatti dalle amministrazioni comunali, perché spesso siamo sul suolo pubblico, certo, per cui anche l'amministrazione, parlo per Verona, ci sono dei controlli fatti proprio dall'amministrazione sia sui prezzi sia sul prodotto che del periodo della stagionalità, chiaramente. Senta, l'ultima domanda, poi dobbiamo terminare. Si tratta secondo lei di una moda oppure questo è proprio un segno di una nuova strada che lega consumatori ed agricoltori? Ma forse è partito un po' come così, lo sembrava, ma si sta per fortuna radicando in maniera forte. No, io credo e dico sempre: noi siamo quello che mangiamo, per cui è importantissimo sapere quello che si acquista, sapere da dove proviene e soprattutto avere una garanzia di qualità e freschezza, insomma. Certamente, la ringrazio. Grazie a lei. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Arrivederci. Passiamo adesso ad alcune notizie. Se il PIL veneto del 2012 è stimato in calo del 2,1%, il comparto agricolo ha invece registrato una sostanziale tenuta, nonostante l'andamento meteorologico penalizzante del 2012, caratterizzato da elevate temperature e da un prolungato periodo di siccità. Il fatturato complessivo è cresciuto dello 0,5%, grazie però ai prezzi in crescita e all'aumento dell'export di prodotti agroalimentari di circa il 9%, mentre è risultata in calo la produzione. Continua a diminuire invece il numero delle imprese agricole del circa il 2%, soprattutto quelle individuali, ma sale il numero di occupati dell'11%. Tra le colture è cresciuto nel 2012 nettamente il frumento tenero, in calo il mais e il riso, in ripresa invece la barbabietola da zucchero e la soia. Partate e ortaggi confermano le superfici aumentando leggermente il valore della produzione, mentre perdite di prodotto hanno registrato le colture frutticole, in particolar modo mele, pere e pesche. Ha tenuto bene invece la vitivinicoltura veneta, che ha subito una contrazione produttiva significativa in termini di produzione di uva e di vino, ma per il terzo anno consecutivo vi è stato un aumento dei prezzi delle uve medialmente del 10%. La terza commissione consiliare della Regione Veneto ha approvato all'unanimità la delibera della Giunta che individua i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra. I siti non idonei sono quelli inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO, le zone di particolare interesse paesaggistico ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio, le zone umide di importanza internazionale, la rete Natura 2000 e le aree naturali protette, i geositi, le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità o ad elevata utilizzazione agricola. Dopo i tagli del governo per quanto riguarda i contributi a questo tipo di impianti, la delibera dovrebbe rappresentare un ulteriore freno al consumo di suolo nella nostra regione. L'agricoltura biologica rappresenta una percentuale relativamente limitata della superficie agricola utilizzata nell'Unione Europea, circa il 5%, ma il settore registra una domanda crescente da parte dei consumatori. In vista di un riesame della politica europea in materia, l'Unione Europea ha avviato una consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini interessati per raccogliere pareri su come sviluppare l'agricoltura biologica nel modo più efficiente. Si può rispondere a un semplice questionario, ma anche inviare le proprie osservazioni a partire dal sito internet dell'Unione Europea, ovvero ec.europa.eu/yourvoice, sezione consultazioni in agricoltura. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con la rubrica Il Quadrifoglio e vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata in podcast dal sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.